E di chi sarà il coraggio allora, se non sarà il mio? Se si spegne quella luce, resto io. Di chi è la più profonda decisione? Al di là dei sogni appesi a una canzone. Oggi riconosco il suono della voce di chi sono. Io mi fido di un passato carico di ingenuità, di chi va dallo stupore a un'altra età. Perché quando sembra apro in uno specchio il cielo e la geografia del mio cammino. E da me, torno da me, perché ho imparato a farmi compagnia dentro di me. Rinasco e frego la del mio